GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Si attenua la linea di fuoco nel Carso Monfalconese, ma resta critica la situazione sul versante sloveno. Centinaia di sfollati. Da questa mattina sulla zona una decina di elicotteri e un Canadair. Valresia, focolai sotto controllo, restano le difficoltà nei collegamenti. Caso Varzi, la tavola urgente mercoledì al Ministero, il gruppo finlandese, ci saremo, ci confronteremo rispettando le procedure. Pocenia, sciopero per il caldo insopportabile alla Modine, l'azienda produce scambiatori di calore. La politica verso le elezioni di settembre, ecco cosa cambia nel panorama per i parlamentari regionali. Raimondo Daronco, architetto geniale, una mostra lo celebra a Udine, Mittelfest, prima intensa giornata. La musica oggi, concerti di Marrakesh, Tommaso Paradiso e Bregovic. Lo sport, tennis, semifinali del torneo ATP di Padriciano, derby fra Maestrelli e Tassaro. Sono le 7:20 minuti in punto. Buona giornata da Giampaolo Mauro e Ludovico Fontana. Cominciamo come di consueto con uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo da sereno a poco nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 25 gradi e 5 decimi, mare calmo con temperatura dell'acqua a 27 gradi. A Pordenone 21 e mezzo, a Udine e a Gorizia 19 e mezzo. Nell'area montana a Tolmezzo 22 gradi, a Tarvisio 16, a Sappada 14, a Forni di Sopra 19, a Piancavallo 16, sull'Ussari 18 gradi, sullo Zoncolan 17 e 5 decimi, a Lignano 27 gradi e mezzo, a Grado 25, con temperatura del mare a 27 gradi e 5 decimi. Le previsioni dell'ARPA per oggi: al mattino cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le zone. La giornata sarà ancora molto calda, con venti a regime di brezza. Dal pomeriggio sulla zona montana, specie sui settori più interni, saranno probabili dei temporali sparsi che in serata e nella notte successiva potranno interessare anche la pianura e forse anche il Carso. Qualche temporale potrà essere localmente anche forte. In apertura ancora l'emergenza incendi, una tregua sul Carso Monfalconese, dove i focolai sono sotto controllo. Anche il fronte di Savogna non preoccupa, mentre rimane critica la situazione sul versante sloveno, in particolare a Zerie e a Terstel. Da questa mattina alle 6 sono in azione sulla zona una decina di elicotteri e un Canadair arrivato dalla Croazia. Ieri la giornata più drammatica, con centinaia di persone evacuate dai paesi e dalle frazioni vicine al fronte di fuoco. Un grande centro di raccolta degli sfollati è stato allestito a Schönpeter. Sentiamo il racconto. È il giorno della collaborazione transfrontaliera, perché gli italiani, in particolare la regione, hanno inviato due elicotteri appena al di là del confine. Quattro paesi della zona limitrofa rispetto al confine sono stati evacuati e i cittadini fatti passare per Devetache, quindi per l'Italia, l'unica strada sicura, destinazione il punto di raccolta di Schönpeter. La situazione dal lato italiano è di relativo controllo dei focolai che vengono tenuti a bada soprattutto attraverso i mezzi aerei qui sul Carso, dove la centrale operativa è nel paese più colpito peraltro dal fuoco, cioè Iamiano. Si monitora l'intero Carso, Triestino e Goriziano, e si è pronti a intervenire per fermare eventuali nuovi focolai. Iamiano, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. In Valresia resistono ancora dei focolai, ma ieri la lunga lotta alle fiamme, soprattutto con i mezzi dall'alto, ha dato risultati importanti. Resta il problema dei collegamenti interrotti, che dovrebbe essere risolto nelle prossime ore. Sentiamo. È tre giorni che non posso andare a casa. Ho la moglie disperata a Stolvizza e io devo stare a 300 da mia figlia. Questi giorni qua è stato tossico. Di notte tosse anch'io, ho cominciato a farmi la tosse. È caldo, beh, caldo per tutti, comunque è una cosa impressionante. Se avessero mandato prima i Canadair, in mezza giornata il fuoco non mangiava tutta la montagna. I Canadair sono arrivati appena lo ha permesso il fronte sul Carso. Per tutto il giorno hanno operato sui cieli di Resia e Resiutta assieme ad altri due elicotteri. Nel pomeriggio, complici i venti e le temperature più alte, l'incendio ha ripreso forza. Le fiamme sono giunte a 50 metri dagli stavoli di Ruskis, ma i proprietari sono stati fatti allontanare e il perimetro è sotto controllo. Incontriamo Fabrizio, è tra le decine di uomini e donne impegnati senza sosta contro le fiamme, da martedì a giovedì sul Carso, poi a Risiutta. Per essere qui, come tanti, ha chiesto ferie. Com'è l'umore fra i volontari? L'umore è positivo da una parte perché si riesce a contestare il fuoco, ad affrontare il fuoco in maniera decisa. Dall'altra giù di morale perché vedere questi disastri fa male al cuore. Io ho lasciato il mio lavoro e sono venuto qua a dare una mano. Sono dipendente in una macelleria, in un prosciuttificio esattamente. Famiglia? Abbandonata, lasciata anche quella, per riuscire ad aiutare qua. Risiutta, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo ai temi del lavoro, l'avvertenza Wärtsilä, il gruppo finlandese che nei giorni scorsi aveva annunciato la dismissione del reparto produttivo dello stabilimento di San Dorligo della Valle con il conseguente taglio di 450 addetti, sarà presente al tavolo urgente convocato al Ministero dello Sviluppo Economico per mercoledì pomeriggio. Wärtsilä, afferma la multinazionale in una nota, è impegnata a collaborare con i sindacati e le istituzioni per individuare soluzioni a sostegno dei nostri lavoratori in linea con la legislazione italiana. Siamo consapevoli dell'impatto sui lavoratori, sulle loro famiglie e sulla comunità intera e confermiamo anche la volontà a rispettare la nuova procedura legale prevista per progetti come questo e a confrontarci sui possibili effetti mitigatori all'interno della procedura stessa. Wärtsilä sottolinea che l'Italia e Trieste rimarranno importanti per l'azienda con le attività di ricerca e sviluppo, vendi, project management, sourcing, assistenza e formazione anche negli anni a venire. L'Università di Trieste aveva espresso ieri a sua volta in un comunicato la preoccupazione per il futuro della partnership con il gruppo finlandese e per le eventuali conseguenze sulla formazione e sull'occupazione dei propri laureati. La chiusura dell'impianto produttivo, scrive l'Ateneo, priva il tessuto locale di opportunità lavorative e di un primato nella motoristica mondiale. Al tavolo di mercoledì davanti al ministro dello sviluppo economico Giorgetti sono stati invitati anche il ministro del lavoro Orlando e il presidente della regione Fedriga. Gli addetti della Modine di Pocenia che produce scambiatori di calore scioperano contro il caldo insopportabile negli stabilimenti. Ieri hanno incrociato le braccia i lavoratori del turno pomeridiano, circa 200, ma il problema ambientale, spiega Michela Zanutta, rappresentante sindacale interna della FIOM, riguarda tutti i 600 addetti. Allora, abbiamo deciso di scioperare perché le condizioni climatiche all'interno degli stabilimenti, a Pocenia ne abbiamo due, sono veramente difficili. Manca l'aria, il clima è irrespirabile, le temperature sono elevate. Quindi abbiamo avuto la segnalazione di qualche lavoratore e queste segnalazioni insomma ci hanno portato a decidere di dichiarare lo sciopero per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Abbiamo avuto dei malori nelle scorse settimane quando ancora non c'erano queste temperature elevate e di conseguenza abbiamo scelto di scioperare. È la prima volta che vi succede questa situazione? Diciamo che anche negli anni scorsi c'erano queste problematiche, più volte abbiamo tentato di parlare con l'azienda per trovare delle soluzioni che siano durature attraverso anche degli investimenti, ma fino ad oggi non abbiamo avuto grandi risposte. E dunque che cosa chiedete all'azienda? Chiediamo all'azienda di effettuare degli studi affinché vengano messi dei raffrescatori, come sono stati già installati in altre aziende del territorio, che apportano benefici ai lavoratori, abbassando di qualche grado le temperature interne, al fine di tutelare insomma i lavoratori. Questa è la richiesta che facciamo. L'intervista era di Livia Liberatore. Stime ancora positive per l'andamento dell'economia regionale nel 2022. Secondo le analisi dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Prometeia aggiornati al 20 luglio, il PIL regionale nel 2022 dovrebbe salire in volume del 2,7% rispetto al più 1,9% stimato ad aprile. Nel 2023 la crescita dovrebbe viceversa rallentare per attestarsi all'1,7% contro il 2,4% previsto in primavera. Il valore dell'export regionale nel primo trimestre è aumentato di oltre il 51% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, anche per la crescita dei prezzi. In forte crescita anche le importazioni, più 49%. Siamo alla politica, il repentino cambiamento dello scenario nazionale con le elezioni fissate per il 25 settembre ha avviato le manovre dei partiti anche a livello locale. Sullo sfondo il voto regionale del prossimo anno. Le elezioni politiche anticipate inevitabilmente avranno ripercussioni sulle regionali del 2023. Innanzitutto a settembre si voterà con la stessa legge elettorale del 2018, ma il Friuli Venezia Giulia avrà meno parlamentari dopo il taglio del 2020 con il referendum, da 20 a 12 con una riduzione del 40% netta sia sui deputati che sui senatori, che passano rispettivamente da 13 a 8 e da 7 a 4. Scenderanno sia gli eletti con il proporzionale che con il maggioritario in entrambe le Camere. Dei 20 attualmente eletti, tanti non saranno confermati, ad esempio sia la senatrice di Forza Italia Laura Stabile, critica con il proprio partito e data in uscita, sia la deputata pentastellata Sabrina De Carlo potrebbero scegliere di non candidarsi proprio. Da capire cosa succederà al futuro politico del ministro 5 Stelle Patuanelli, che rimarrà in carica comunque fino alle elezioni, mentre sicuramente sarà in campo Ettore Rosato di Italia Viva. Fratelli d'Italia dal canto suo vorrebbe vedere aumentare la propria pattuglia, ma è consapevole che dipenderà dalle scelte che verranno fatte a Roma a livello di alleanza. Con il campo largo ormai naufragato, lo stesso dilemma lo avranno anche Partito Democratico e 5 Stelle. Chi di sicuro non scenderà in campo a settembre è il presidente Massimiliano Fedriga, che sull'ipotesi di una chiamata da Roma per le prossime politiche risponde secco. Non vedo questa ipotesi e sarebbe rifiutata. Io sto in Friuli-Venezia Giulia e mi ricandido nel 2023. Fedriga auspica anche una campagna elettorale su temi concreti e realizzabili. Che sia un programma pragmatico di concretezza. Ecco, spero di non vedere, ma me lo auguro per tutte le forze politiche, a destra e a sinistra, che non si faccia la solita propaganda spicciola. Difficile capire chi in primavera sarà lo sfidante del centro-sinistra. Nel caso che la frattura tra PD e 5 Stelle sia confermata, i Dem potrebbero correre da soli. E i risultati delle politiche, dove si guarda con curiosità a ciò che accadrà al centro, potrebbero dare indicazioni in tal senso. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La Giunta regionale ha approvato il programma immigrazione del 2022 che conta su risorse per 4 milioni e 300 mila euro. La parte più rilevante sarà destinata agli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La Regione interviene anche per sostenere gli enti locali che risultano affidatari di neomaggiorenni. Fondi anche alle realtà del terzo settore e agli enti che in Friuli Venezia Giulia svolgono attività a favore degli immigrati. Per le scuole si attiva l'azione del bando di integrazione per il superamento delle bandiere linguistiche e per contrastare la dispersione scolastica. Nel pomeriggio alle 18 a Udine, in piazza 20 settembre, si terrà la manifestazione Tacciano le armi, negoziato subito, promossa da forze politiche della sinistra, sindacati, comitati e associazioni. Per esempio ci sono il Centro Balducci, Legambiente, Le Donne in Nero e la Rete d'Asi. Il conflitto in corso rischia di colpire sempre più la vita non solo dei belligeranti, ma la popolazione del mondo intero. Queste le premesse. Chiediamo un impegno per una soluzione politica della crisi, chiediamo alle istituzioni europee e al nostro governo, dicono gli organizzatori, un fattivo impegno per la pace. Due anni fa la scomparsa di Giulio Magrini, ex consigliere regionale, componente della Commissione Speciale per la Ricostruzione post-terremoto, sindaco di Ovaro e figura di riferimento della sinistra in Carnia. Un convegno per ricordarlo è stato promosso dai comuni di Ovaro e Prato Carnico alle 16.30 alla segheria veneziana di Aplis. Fra i partecipanti Diego Carpenedo e Andrea Zannini. La pagina della cultura Udine rende omaggio con una mostra a uno degli uomini che seppero dare nuove forme al volto della città e di altri centri friulani, l'architetto Raimondo Daronco. Il nome Raimondo Daronco, oltre a rimandare all'omonimo palazzo sede del comune, a Udine è sinonimo di quell'architettura che a inizi Novecento seppe affermarsi non solo nella piccola patria. Un architetto cosmopolita in patria, Raimondo Daronco e il Friuli, e la mostra realizzata dai civici musei del comune di Udine per raccontare il percorso creativo, soffermandosi sulle opere friulane e sull'esperienza in Turchia. Silva Bianco è il conservatore dei civici musei di Udine. È l'occasione per valorizzare il ricco patrimonio custodito dalle gallerie del progetto e che fa parte dell'archivio Daronco. 3.340 disegni che permettono di ricostruire il percorso progettuale e creativo dell'architetto conosciuto in Italia, in Europa e nel mondo come uno dei massimi esponenti dell'Art Nouveau. L'esposizione è articolata in 5 sezioni tematiche, allestite tra la Galleria d'Arte Antica e il Museo Friulano della Fotografia, consentirà una comprensione anche visiva dell'evoluzione del linguaggio architettonico, dell'eclettismo dell'ultimo ventennio dell'Ottocento, fino al Liberty, alla secessione viennese e alle sperimentazioni del Rinascimento moderno. È una mostra rivolta al pubblico più ampio, è una mostra per addetti ai lavori, quindi per architetti che potranno apprezzare la minuzia con la quale l'architetto progetta e rappresenta tutti gli elementi e le fasi del progetto architettonico. Ma è una mostra che potrà essere apprezzata anche da chi ama l'arte, da chi ama il disegno e da chi semplicemente vuole conoscere qualcosa di più su questo grande architetto. Udine, Armando Mucchino, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Mittelfest entra nel vivo oggi alle 17 la cerimonia di inaugurazione al convitto Paolo Diacono di Cividale. Numerosi gli spettacoli in programma nella giornata, fra questi alle 20.45 al Teatro Ristori la prima nazionale di The Handke Project, un lavoro di artisti da Kosovo, Bosnia e Erzegovina, Germania e Italia che racconta la figura di Peter Handke, premio Nobel per la letteratura nel 2019. Abbiamo parlato con l'attore Klaus Martini. Il tema centrale è l'indagine intorno alla responsabilità etica di un artista o dell'arte. Nello specifico, perché questo intorno alla figura di Handke? Perché nel 2019 lui ha vinto il premio Nobel per la letteratura, per le sue opere, ma eticamente, insomma, il drammaturgo di questo spettacolo, Yeton Esirai, ha sollecitato in qualche modo questo interrogativo: ok, abbiamo di fronte a noi una grande figura letteraria, ma che eticamente negli anni è stata non così trasparente, perché negli anni prima, insomma, intorno agli anni, fine anni 90, primi 2000, Peter Handke è stato molto vicino alla figura di Milosevic e a tutto quel filone serbo di quegli anni, purtroppo protagonista delle guerre balcaniche. Tra le tante, è arrivato a mettere in discussione anche Srebrenica e tutto quello che è successo. È stato, diciamo, un difensore della Serbia di allora, insomma, della Serbia di Milosevic. Insomma, ecco, questo è un po' il tema centrale, che poi nello spettacolo si articola con tutta una serie di scene, con molti quadri, alcuni ironici, altri molto più diretti e dritti al punto, rispetto a questi avvenimenti. Quindi il rapporto di Handke con Milosevic, con la negazione di Srebrenica e con una non responsabilità, forse, eticamente rispetto al suo essere comunque una figura autorevole della letteratura. Oggi è l'ultima giornata del Festival Green Nano Valbruna. Alle 19.30 l'appuntamento con Patrizio Roversi, storico conduttore televisivo di Turisti per Caso, che parlerà della divulgazione del turismo sostenibile e la promozione di scelte sostenibili nella produzione. Nell'incontro Friuli Sostenibile, non per caso. E ora con la musica ci spostiamo a Maiano. Oggi comincia il festival subito con un grande nome. Il grigio delle strade e gli edifici ti resta addosso tipo abbronzatura, ho vinto spesso con molti nemici. È il rap da premio Tenco, quello di Marrakech. Contenuti, qualità e c'è anche musica che rimane. Crazy Love, la canzone che aveva anticipato l'ultimo album premiato dalla critica, ha contribuito a far innalzare quasi a 900 milioni gli streaming totalizzati in carriera dall'artista. Marrakech salirà sul palco dell'area concerti dopo Fè, rapper di Gemona, che aprirà la serata alle 21, ma il festival sarà inaugurato 2 ore prima. Ieri intanto le prime note sono state quelle dell'orchestra Thousand Streets, un electro swing che dimostra quanto gli organizzatori del festival di Maiano tengano alla varietà di generi. A Trieste invece arriva il ciclone Goran Bregovic, fenomenale dal vivo con la sua Wedding and Funeral Band. Il concerto è al Castello di San Giusto. Bregovic è una delle superstar di Hot in the City, che nelle prossime settimane vedrà l'arrivo di Edoardo Bennato, Mario Biondi e Joe Stone. Pordenone Blues si chiude con un appuntamento di grande richiamo, quello con The Darkness, per la band britannica, quello al Parco di San Valentino alle 21.30, è l'unico concerto in Italia. I fratelli Hawkins, protagonisti della scena hard da oltre 20 anni, arrivano sull'onda dell'ampio tour europeo che ad agosto li porterà in Spagna. Nel parco di Villa Manin il folk statunitense si interseca con il cantautorato italiano e il doppio set di Micah Hinson e The Leading Guy alias Simone Zampieri. L'appuntamento è alle 18. Hinson, tutto chitarra e sigarette, è un musicista di grande personalità, un mito per lo stesso Leading Guy che scelse proprio questo nome d'arte ispirandosi al titolo di una canzone dell'artista di Memphis. Musica ad alta quota invece con No Borders, dove oggi si vede il paradiso. Un ragazzo sopra una vespa da camicia aperta, gli occhiali scuri, capelli al vento, tanto tormento. Paradiso Tommaso, autore di uno dei tormentoni dell'estate, questa piove in discoteca, storia felice ma più breve di una stagione di una giovanissima coppia in atmosfera anni 80. Il Tommy Summer Tour approda a Fusine con tutti i successi della carriera, tutta in ascesa anche da solista dopo l'esperienza con The Giornalisti del 39enne cantautore romano. Promette di far cantare tutti i suoi pezzi anche sotto il sole delle 14. È molto fitta l'agenda musicale di oggi, ecco qualche altro appuntamento. Folkest si incrocia con il Festival Palchi nei Parchi e propone a Barcis l'appuntamento con il quintetto dei Green Waves che suonerà a Villa Emma nell'inconsueto orario mattutino delle 10. E questa sera Folkest sarà a Capodistria, in Slovenia, con uno dei concerti più attesi del programma. In piazza Carpaccio alle 21 suoneranno Roy Paci e gli Aretusca. Un altro grande festival itinerante, Carni Armonia, fa oggi tappa a Pontebba. Al Teatro Italia alle 20.45 suona il Max Saxophone Quartet che ospita il jazzista Rosario Giuliani per un ricercato progetto crossover dal titolo Miserere, il suono italiano attraverso i secoli. Il progetto Beethoven della Società dei Concerti tocca questa sera il Sartorio di Trieste. Gli strumentisti della Filarmonica di Milano saranno protagonisti di un concerto da camera con la soprano Valentina Corò e il pianista Francesco Granata alle 21. Si apre il Festival Internazionale Cori d'Europa a Codroipo nel Duomo di Santa Maria Maggiore alle 21, di scena il coro Monteverdi di Ruda e il coro Obilic di Belgrado. Domani sera la replica ad Aquileia. Nell'abbazia di Rosazzo alle 20.45 invece il concerto finale del Seminario Internazionale di Canto Gregoriano. Prosegue il programma di San Vito Jazz. Questa sera in piazza Statlon alle 21 Francesco Berzatti presenterà il progetto Portrait of Tony, un omaggio al clarinettista italo-americano Tony Scott. Con l'artista friulano sul palco saliranno Federico Casagrande, Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi. E in regione la più famosa DJ russa, Nina Kravitz, una regina della techno, sarà fra gli animatori del set in programma Villesse nell'area esterna del Tiare dalle 19.30. Percotto canta e questa sera ad Aquileia con i 26 finalisti scelti a Cervignano. La semifinale di Piazza Capitolo porterà 12 concorrenti all'evento conclusivo di Udine. A Sacile per il 26esimo International Music Meeting, l'ex chiesa di San Gregorio alle 21 vedrà l'esibizione di 4 concertisti di alto livello, Alessandro Commellato al pianoforte e Luca Simoncini al violoncello, che si esibiranno singolarmente. Precederanno il duo formato da Maya Cabeza al violino e Ulrike Hoffmann al violoncello. Altri spettacoli questa sera alle 20.30 al Teatro San Giorgio di Udine, in scena il monologo Aquile Randage, credere, disobbedire, resistere, die con Alex Cendron. Lo spettacolo fa parte del progetto Passi nella storia del Friuli Venezia Giulia, coordinato dalla Società Alpina Friulana. Ed è una storia di resistenza e partecipazione quella che viene raccontata questa sera. L'autore, Alex Cendron, ci ha spiegato chi erano le Aquile Randage. Le Aquile Randage erano un gruppo di giovani milanesi, scout, che quando, pochi lo sanno, nel 1928 il fascismo mise fuori legge lo scoutismo in Italia, decisero di continuare a praticare scoutismo illegalmente, in maniera clandestina, subendo pestaggi, subendo insomma diverse angherie, e continuarono per 17 lunghi anni. Parliamo di giovani molto, molto giovani, cioè il più vecchio aveva 24 anni all'inizio. Poi chiaramente lungo il viaggio sono cresciuti e hanno anche dato vita a un gruppo che si chiama Oscar, di espatrio e di aiuto ai renitenti alla leva, agli ebrei, insomma ai ricercati politici, a tutti quelli che, soprattutto dopo la nascita della Repubblica Sociale Italiana, erano ricercati dai fascisti e dai nazisti, e loro nel giro di pochi mesi hanno salvato 2000 persone. principalmente facendo riscappare in Svizzera. Come mai uno spettacolo su di loro? Ma io in realtà ho un trascorso scout, quindi mentre studiavo tra l'altro a Udine, in accademia, mentre come dire, mi formavo come attore, chiaramente negli occhi, nella testa, nel cuore avevo il grande Vaillant di Paolini, e quando invece parallelamente insomma mi sono formato come capo scout ho fatto il secondo tempo, diciamo così, che è un campo obbligatorio per i capi per essere autorizzati a essere capi. Ho scoperto questa storia e mi ha affascinato perché è una storia che mostra il meglio dello scautismo, mostra una forma di resistenza giovanile, probabilmente la prima forma di resistenza giovanile perché inizia appunto nel 28, che è quasi sconosciuta, per cui ho detto questa è una storia bellissima da raccontare. Siamo allo sport, l'Udinese è un gioiello non soltanto della Serie A ma del calcio italiano, non sono numerose le proprietà così longeve e anche per questo la società friulana riveste un ruolo molto importante. Parole del presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, che ieri era a Udine e ha visitato lo Stadio Friuli. Questa struttura è fra le migliori che ho visitato, ha detto Casini, che è stato accolto dai vertici bianconeri. Intanto continua il ritiro dell'Udinese a Lienz in Austria, domani pomeriggio nuova amichevole, questa volta con la nazionale del Qatar. Partita che sarà giocata a porte chiuse per motivi di ordine pubblico. Per quanto riguarda il mercato, Molina sempre più vicino all'Atletico Madrid. In Serie C oggi nuova amichevole della Triestina, sarà in campo a Moena contro la Fiorentina. Intanto il Pordenone ha ingaggiato il difensore esterno Amedeo Benedetti, 31 anni, che arriva dal Cittadella dopo aver totalizzato con la squadra veneta 187 presenze e 6 reti in 7 stagioni. Nel suo curriculum granata ci sono una vittoria del campionato di Serie C proprio davanti al Pordenone e 5 partecipazioni ai playoff di B con 2 finali. Il basket, Tommaso Fantoma, triestino classe 2003, e Lorenzo Guerrieri, senese del 2002, hanno firmato con la Pallacanestro Trieste il loro primo contratto da professionisti che li lega alla società biancorossa fino al 2026. Crediamo in loro, ha detto il presidente Ghiacci. Fantoma è una guardia ala di 196 centimetri, cresciuto in biancorosso. Guerrieri è un centro di 213 centimetri che può vantare già esperienza internazionale, avendo militato per 3 stagioni in Spagna nelle file del Barcellona. È un abitué delle giovanili azzurre, reduce da un periodo di stop e ora è pronto per rimettersi in gioco. Il tennis, Francesco Maestrelli, numero 237 nelle classifiche ATP, e Francesco Passaro, numero 187, si sfideranno alle 16:30 nella semifinale del Città di Trieste, torneo ATP che si sta disputando sui campi in terra battuta del Tennis Club Triestino. Nei quarti, a sorpresa, Passaro ha superato in 3 set la prima testa di serie, lo slovacco Gombos, che nella classifica mondiale è 70 posti più su. Maestrelli ha invece vinto il derby italiano con Salvatore Caruso 6-3-6-3. Nell'altra semifinale, questa sera alle 20:30, saranno di fronte Müller e Zhang. Si conclude questo weekend a Trieste, nello skate park di Via Petitti di Roreto, nel rione di San Giacomo, il primo campionato regionale di skateboard. Oggi l'apertura è prevista alle 10, la manifestazione poi proseguirà fino a sera con un DJ set dalle 21. Domani le ultime gare, che avranno inizio alle 12, e chiusura finale in serata con il concerto del rapper romano Cicoria. Si sono iscritti in 450 online per la pedalata notturna da Udine a Ugovizza, 100 km lungo la ciclovia Alpe Adria, che partirà a mezzanotte da Piazza Libertà. Alle 21 è fissato il ritrovo per il ritiro dei pacchi gare per le eventuali iscrizioni di altri partecipanti. Il villaggio partenza offrirà anche un'area nella quale depositare i bagagli che verranno poi trasportati all'arrivo, un'area tecnica con un meccanico, lo spazio nel quale ritirare le bici a noleggio o il casco. Quella friulana è la terza tappa della Bike Night numero 8 organizzata da WeTour. Lungo il tragitto sono previsti 3 ristoranti a Treppo Grande, Gemona e Chiusaforte, e all'arrivo ci sarà la colazione. Fatta a Trieste, in piazza Sant'Antonio, il villaggio dello sport, uno spazio attrezzato di circa 1000 metri quadrati con eventi e la possibilità per tutti i visitatori di provare diverse discipline sportive, dal basket al tiro con l'arco. Sarà presente nel villaggio Angelica Savrayuk, ginnasta nella specialità della ritmica, italiana di origine ucraina, bronzo olimpico a Londra nel 2012. Le 7.48, siamo alla rassegna stampa, cominciamo dal Messaggero Veneto. In prima pagina, fotonotizia centrale comune in tutte le edizioni, è la fotografia di un vigile del fuoco che raccoglie le forze in Valresia. Pochi estremati, la fatica e il coraggio dei soccorritori. Accanto, in taglio centrale, l'addio alla volontaria della protezione civile morta a Cialla di Prepotto. In totale sono 7 le pagine interne dedicate agli incendi dal Messaggero Veneto. Il titolo principale dell'edizione del Friuli è invece su un'altra conseguenza delle alte temperature: troppo caldo nell'azienda di ventilazione, operai a casa, succede a Pocenia, ne abbiamo parlato nel corso del nostro giornale radio. Fra le altre notizie di cronaca, 10 fototrappole per incastrare chi abbandona i rifiuti in città. Per lo sport, Molina all'Atletico Madrid, ci siamo, all'Udinese 15 milioni e il ritorno di Perez. Il titolo principale dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto è invece sui controlli dei carabinieri in provincia. Lavoro nero, sanzionati ristoranti e agriturismi. In un caso sospesa l'attività imprenditoriale. Di forte impatto la prima pagina del Piccolo, con la grande foto di una delle zone bruciate del Carso e il titolo La devastazione. Nuovo fronte nella zona di Savogna, così titola l'edizione di Monfalcone Gorizia. Oltre 500 sfollati nelle frazioni oltre confine, boschi ridotti a cumuli di cenere, ripartiti i treni. Tra gli approfondimenti, slitta ancora il ritorno a casa per gli abitanti di Yamiano. A Lubiana il governo mobilita mezzi da tutto il paese. L'altro tema forte è la politica, con il paese verso il voto e le prove di disgelo nel centrodestra, mentre Fedriga, il presidente della regione, dice la Lega va avanti unita, Draghi ha fatto un ottimo lavoro. In prima pagina sul Piccolo i richiami sul caso Varzila e l'annuncio del tavolo di mercoledì a Roma, mentre scrive il quotidiano vola il fatturato dei finlandesi che respingono l'out-out di Fincantieri al Flex di Trieste. Intanto contratti di solidarietà fino a febbraio. Siamo ai due dorsi regionali del Gazzettino che hanno lo stesso titolo: la dura sfida contro il fuoco che divora le montagne. Accanto a una grande fotonotizia centrale con i racconti dei volontari, così ho salvato turisti e bambini. Poi, per la siccità, i danni all'agricoltura, così a 39 gradi l'acqua cucina le coltivazioni. Per la sanità, Covid, i dottori di base non vaccinano i pazienti, protestano alcuni cittadini. Intanto, sull'edizione del Friuli, a Udine è lite fra medici di famiglia e anestesisti per un corso dell'Agenzia Regionale di Coordinamento della Salute. Per i trasporti, disagi sulla linea ferroviaria, un treno stregato sulla Udine-Venezia, guasto due volte di fila. Sul dorso di Pordenone del Gazzettino, emergenza idrica a San Vito, il sindaco preparate le taniche di acqua. Poi l'aeroclub non è clandestino, contributi legittimi. Infine, a Maniago, da anni guidava senza patente, bloccato, riceve una multa di 5.000 euro. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con la terza puntata di Parapapunzi, rivista radiofonica in dialetto triestino realizzata nel 1992, che è nata nel solco del Campanon e di Cari Stornei, presenta macchiette di tutto un secolo grazie alla brillante conduzione di Ruggero Winter e Nereo Zepper, che ne era anche il regista all'epoca. A mezzogiorno l'appuntamento con Bon Bon, 30 minuti di umorismo in cui tutto può succedere. È tutto per questa edizione, che è stata realizzata da Ludovico Fontana, Livia Liberatore, Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Vasia Krismancic e Federico Comar. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. 7.52, 30 secondi, vi lasciamo le informazioni su traffico e viabilità regionali. Grazie per averci seguito e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.